Benedetta Angelina del cuore, come una palma è da senza veligo. Dorme chi dorme da una paradora, chi la mamma non c'è, che d'ora venigo. Giusto a fare l'ora lo Signore, la moratia là, vi presto venigo. Ninna ninna cuva pane mena, puta macho de mia, figlia tenga naga. Ora la canta, ora la drumescio, ora la ricomanda San Francesco. San Francesco di Paolo del mio deletto, venite alla mia casa che vi speri a togo. Buona dromma scete in ora santa, in ora che lo pare non mi sa canta. E con la salarrera, e primavera duina, quei cavalli sali di nave, e ora tocca a tia quattro via, quando vai bene se ne tene. Oh, lo bello giovinotto, o tu nave la vena novena, e di la salina fa decina, e undici nave monnaio dodici, quando vai bene, naio 13, viene naio 14, Lucia, e tutti 15 na via. Oh, glasa la letti, un bello giovinotto di girotto, quei cavalli sali salamore, naio 19, vidi naio, ora cabaro gine tue, l'ultima mega te da 22, e salaline vidi gine. Un ogni oggi ritagliare, ancora nati nuovi ci nadare. Ora guai salannue, due navi la venna trignaia, quattro navemo vanno e vengono, e tutti gli altri sette denna.